Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori del 24, 18 primi, 7 secondi in diretta, assolati gli studi di Milano da cui siamo in diretta oggi. Siamo un giorno di primavera, anche la natura risponde alla scelta degli elettori americani, cari ascoltatori. Vabbè, un inizio di quelli naturalmente per invitarvi a stare con noi queste due ore dei conti della Belva. E Oscar Giannino qua al microfono insieme ai suoi compari in studio a Milano, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. Carlo Alberto Carnevale Maffè, che questa puntata sì. Giocherà per intero over tutte the le land carte. Of the free and the home of the brave. Solo per ricordare che sabato scorso non aveva dubbi il nostro Carlo Alberto. Avevo i dubbi, però diciamo che non avevo i vostri dubbi e soprattutto pensavo che non fosse poi l'apocalisse che stavate dipingendo. Esattamente, quindi abbiamo svolto bene la nostra funzione sabato scorso, perché a differenza del concerto dominante, ecco, non solo degli Armageddon, ma di coloro che dicevano che tanto non c'era affatto contesa, al 90% aveva già vinto, ma insomma praticamente potevano non aprirli i seggi a quanto pareva, e invece le cose sono andate diversamente. Allora oggi sicuramente parliamo nella prima metà della trasmissione su cosa ci dobbiamo aspettare, come dobbiamo interpretare questo voto, cosa ci dobbiamo aspettare noi, a differenza di tutti quelli che continuano a illustrarvi ogni giorno squadre di governo già nominate. Lo ammettiamo, non abbiamo fonti dirette. Vedo che oramai siamo a squadre di fronte alla cui composizione, se fosse vero metà di quello che leggo, beh, inizierei a leccarmi i baffi, perché oggi ho letto che Bob Barrow insegna ad Harvard, stiamo parlando di uno dei più grandi economisti degli ultimi decenni, magari, cioè, però io non so nulla, quindi, ma comunque cercheremo di interpretarlo, quindi chiamateci per dire come l'avete presa, l'avete buttata giù, avete preso un po' di digestivo questa cosa oppure no, o la pensate come Saviano oggi, intervistato alla stampa, dice che moriremo tutti, dice no. Che letteralmente i bambini killer di Napoli e gli operai che hanno votato Trump sono ugualmente vittime messe all'angolo dalle caste, marginalizzate nella società. I bambini killer della camorra e gli operai che votano che hanno votato Trump sono ugualmente vittime. Io, vabbè, di fronte a questo collasso mentale, però è un artista, è uno scrittore, quindi è immaginifico, diciamo. Va bene, però detto tutto questo, diteci come la pensate, chiamateci. C'è poi anche una parte della trasmissione, verso la seconda parte, in cui c'è un commercialista che viene a trovarci come ospite, perché ho trovato il suo sfogo, quindi è dedicata a tutti i commercialisti e a tutti voi contribuenti, quella parte della trasmissione nella quale a un certo punto gli sono saltate le valvole a questo commercialista e ha detto: no, io sono incredulo di fronte alla batteria di aggravi nuovi che c'è nel decreto fiscale che fa parte concomitante rispetto alla legge di bilancio, e al modo in cui le istituzioni ce le presentano e al modo in cui nessuno sta reagendo, a cominciare da noi commercialisti e da noi contribuenti. E quindi l'ho invitato al volo. Se avete capito che stiamo andando verso un inferno assoluto della compliance, cioè dei meccanismi di adempimento richiesti a tutti noi contribuenti che siamo soggetti attivi passivi IVA, bene, chiamateci e diteci come la pensate, naturalmente. La nostra rubrica questa settimana, quella felliniana, è dedicata a l'Europa più sola dopo l'America di Trump. Un nome per tutti, la dichiarazione di Juncker di ieri, effettivamente un po' fuori dal vaso. Perderemo due anni perché Trump deve prima girare il mondo che non conosce. Ma oltre a tutto questo, qualche segnalazione in cherry picking aggiuntiva, cari amici? Ma io, allora, a parte che oggi, anzi ieri, abbiamo scoperto che i Musei Vaticani sono italiani, Per cui diciamo che Beppe Grillo si conferma un comico di razza, diciamo, vorrà chiedere a Bergoglio, vuole farsi ricevere da Bergoglio e presentargli il conto, il Vaticano deve pagare l'affitto dei musei vaticani. Era una battuta. Però era sicuramente una battuta, infatti, come ne fanno tante, come la Costituzione votata a suffragio universale di Battista. Ma a parte ciò, a me ha colpito e anche divertito questa notiziola delle pagine romane del Corriere. Praticamente in un ufficio postale di Terracina, in provincia di Latina, i pensionati che erano in coda, vistisi sistematicamente saltati da giovanotti che avevano preso il numero in maniera digitale, cioè con la famosa app Salta la Fila di Poste Italiane, si sono irritati e hanno chiamato i carabinieri. I quali carabinieri hanno ritenuto di non intervenire. Ecco, allora, questo episodio, diciamo, per chi conosce, per chi si trova ovviamente nel mondo reale e capita anche di fare la fila all'ufficio postale, un'attività che dobbiamo cercare di minimizzare quanto possibile se, quando e come la tecnologia ci aiuta, conferma una mia, diciamo, un mio antico convincimento, cioè che mentre noi abbiamo il tentativo di avere l'industria 4.0, abbiamo il paese reale a 0.4, caro Carlo Alberto, per cui questo è un gravissimo, come dire, una zavorra che ci portiamo dietro sulla strada della digitalizzazione. Non è solo un problema di architettura di sistemi, di infrastruttura digitale e quant'altro. C'è proprio, per usare i paroloni che usano le persone colte che partecipano ai seminari, questo digital divide che è demografico, generazionale, secondo me non solo quello, che però ci tiene molto frenati, e questo è un elemento che, al di là della simpatia, diciamo, del divertimento dell'episodio, è qualcosa su cui riflettere, ecco. Allora continuo io sul fronte digitale per dare notizie miste. Ieri sono emersi i primi emendamenti alla legge di bilancio e salta fuori una situazione un po' strana, per cui per me un elemento positivo come la famosa cedolare secca su Airbnb è un elemento interessante perché semplifica, non so, e diciamo dà una certezza della tassazione, però è in cauda da venenum, il criterio del fatto che la piattaforma debba diventare sostituto d'imposta è una trappola dal mio punto di vista, perché teoricamente punta a imporre che la piattaforma debba aprire una stabile organizzazione in Italia, e questo secondo me non è un modo intelligente per favorire i mercati europei e quindi la competizione a livello continentale. E in ogni caso, appunto, nello stesso tipo di emendamento che emerge ci sono iniziative contro, per esempio, il secondary ticketing, che secondo me sanno un po' di proibizionismo, sanno un po' di imposizione. Ricordo che c'è il tentativo di limitare al massimo in 500 coperti all'anno le attività di ristoranti open, no? come appunto quel gnamo e altre forme di questo genere qua. Quindi lo Stato lì che conta i coperti e se uno fa mezza porzione facciamo va 500,05, esatto. Quindi uno Stato che un Parlamento che fa una terribile fatica a venire a capo anche di questa complessità, anzi di questa semplificazione, vuole ulteriormente complicare quando il mondo delle tecnologie avrà bisogno di semplicità, chiarezza e certezza del diritto. Mi sono levato il maglione, che ascoltatori, perché adesso faccio pugni con Carlo Alberto. Oh, che bello, l'altra volta le hai prese però. Faccio pugni, cioè voglio dire, con l'area così paradisiaca, dici, ma è una cosa positiva cedolare secca. Di che cavolo stai parlando? Allora, scusa, un secondo, riflettiamo. Allora, a oggi, nel mercato degli affitti, la cedolare secca, mi striscio perché io sono a zero titolo di fronte a voi due miei carissimi amici ospiti, però vi faccio notare che la cedolare secca è un'opzione di regime della tassazione degli affitti, dipende dalla tipologia di affitti, come sapete, eccetera, eccetera. Adesso, con questo emendamento di qualche brillante rozzo spacca alberi della concorrenza alla vecchia casta alberghiera, perché di questo si tratta, perché quello è un emendamento telefonato che il PD sposa, ecco, e non puoi dire che è positivo un emendamento che trasforma una facoltà attuale nel regime degli affitti e della tassazione degli affitti nell'intero mondo immobiliare, la fa diventare obbligatoria per affitti di 2 giorni solo perché sono alternativi alla vecchia attività alberghiera. Carlo Alberto, non ci hai pensato, perché non ci posso credere che tu hai detto che è una buona cosa. Non ti ho interrotto. Quindi è un emendamento devastantemente di parte, anticoncorrenziale, figlio della cultura delle caste corporative perché questa scelta fiscale applica a un mercato anche di un giorno o due una scelta che nel resto del mercato immobiliare è solo opzionale. Uno, due. Farne un sostituto d'imposta significa proprio, e l'hai detto, su questo siamo d'accordo, tre, ti sei dimenticato questa brillantissima trovata del registro nazionale, presto l'Agenzia delle Entrate, detto tutto, delle attività alberghiere extra imprenditoriali, che è una definizione marziana, da bar di Guerre Stellari, se permetti. Allora, la somma di queste tre cose, ma è proprio la prima, quella fiscale, che ti indica che siamo in presenza di una cosa di fronte alla quale uno deve dire solo no, no e no. Rispondi. Forza. No, no, era una critica, mi sembra che volessi. Io sono favorevole a, diciamo, condizioni fiscali chiare e quindi a finire questo dibattito per cui sembra che Inter sia un covo di evasori fiscali. Esatto, un covo di evasori. Quindi questo era lo spirito del mio critica. Dopodiché condivido completamente il tuo punto di vista sul fatto che è una trappola, l'ho detto, e che è un ulteriore modo di alcuni parlamentari di imbrigliare. Ciò detto, il tema dell'obbligatorietà e della facoltà è un tema importante, per carità, ma io preferisco certezza e chiarezza piuttosto che questo cicaleccio infinito e che delegittima anche questa modalità. Quindi voglio il male minore, se vuoi, che è quello dell'obbligatorietà, ma ovviamente il resto è inaccettabile. Quindi la mia era inaccettabile a cominciare da quello, va bene, comunque. Mario, però no, diciamo, in astratto, la produzione di reddito è un presupposto d'imposta. Ah, beh, certo. No? Però il fatto che abbiamo un legislatore che geneticamente vuole assolutamente creare albi, elenchi, liste, tassonomie, eccetera, cioè dà proprio la misura del carattere, come dire, dei borbonico. Bei tempi che fu, no, borbonico, i fasci e le corporazioni, per cui che riveduto e corretto ai nostri giorni è lo sfascio e esatto. Le corporazioni, e che siccome non accetta l'idea di un calcolo reale dell'imponibile e quindi poi dell'imposta, preferisce procedere arando il campo con aliquote secche, con la minaccia che se sei al di sotto di quella stima di imposta su un fatturato che lo Stato si attribuisce la capacità di determinarti meglio di quanto non lo sappia tu, altrimenti sei un evasore, perché questa è la cedolare. È inutile che l'obbligatorietà della cedolare è una pistola puntata alla tempia, questo è, e soprattutto applicata a un regime poi di una cosa di un giorno o due giorni, quando è una facoltà aperta nel mercato immobiliare per affitti pluriennali, quindi è una pistola alla tempia, è sempre la stessa cosa. Comunque poi ci aggiorniamo quando alle 11 e un quarto avremo questo nostro amico commercialista che vi farà ulteriormente riflettere, cari ascoltatori, sulla batteria di aggravi che arrivano col decreto fiscale. Torniamo tra poco. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci tornati, e parte la sigletta della nostra rubrica iniziale di ogni trasmissione sui conti della crisi col grande Mario Seminerio. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me lo segni proprio, non mi preoccupare. Eccoci, ecco. Nostra sorella morte corporale ha avvisato tramite le urne americane che a volte fare i conti con lei in maniera sbagliata, appunto, è in maniera sbagliata. Ma dai, questa settimana da cosa cominciamo, Mario? Beh, allora, diciamo che se non ci fosse stato l'evento abbastanza clamoroso dell'elezione di Trump, per noi italiani la settimana sarebbe stata quella del famoso me ne infischio di Juncker, no? Che quando ha detto, con una traduzione che agli italiani ha provocato subito riflessi pavloviani, del fatto che Renzi, diciamo, continua ad accusare la commissione, la butta in cacciara, je m'en fous, quindi me ne infischio, me ne frego, me ne fotto, fate voi, cioè voglio dire, la traduzione più o meno è abbastanza libera, fa parte del personaggio Juncker che anche da sobrio è abbastanza, come dire, schietto ed esplicito. mi spiace che sia riuscito. Scusate, ascoltatore, voglio per precisare, questo anche da sobrio non è... No, esatto. Perché è notorio ed è dichiarato, più volte è stato oggetto di contestazione, che il personaggio beve troppo, appunto. No, no, ma infatti, ma qui probabilmente non è la questione di bere, cioè che questo si trova sottoposto a provocazioni continue e dopo praticamente si incazza, ecco, cioè questo come ogni essere umano. Ma a parte questo, vi dobbiamo dare l'aggiornamento del dato di produzione industriale di settembre. Ricorderete il mese scorso, quello di agosto, fu veramente una crescita molto robusta che aveva già indotto alcuni a rovesciarsi nelle strade, a festeggiare, a ballare. Questo mese c'è stato una parziale restituzione di quel progresso. Abbiamo avuto un meno 0,8. La Germania ha fatto peggio, a meno 1,8. Ma in generale, cosa è successo nel mese di settembre? La produzione industriale è calata molto, ma meno di quel tanto che aveva guadagnato ad agosto. Morale della favola, per l'Eurozona, Italia inclusa, il terzo trimestre, quindi luglio-settembre, si è chiuso con una ripresa della produzione industriale. Ricordiamo che nel secondo trimestre la produzione industriale era stata negativa, si era contratta, nel terzo trimestre è aumentata. La prossima settimana ci sarà la stima preliminare del PIL italiano del terzo trimestre. Le stime di consenso, diciamo, sono intorno allo 0,2 o più probabilmente allo 0,3. Ve lo diciamo prima perché così potrete prepararvi, a seconda del vostro orientamento, a celebrare i grandissimi risultati del governo Renzi oppure a dire che non c'è crescita in questo paese. Quindi ognuno scelga, come dire, la soluzione che preferisce. Non c'è veramente molto da dire questa settimana. Forse a livello congiunturale un tema che ci accompagnerà nelle prossime settimane per l'avvio della presidenza Trump, ma di cui parleremo dopo, è questa forte ripresa dei rendimenti obbligazionari. Questo è razionale perché Trump si accinge, se manterrà la promessa, a iniettare un potente stimolo fiscale nell'economia americana. Uno stimolo fatto di aumenti di spesa pubblica, ad esempio per infrastrutture, e riduzione di imposte. Poi parleremo in dettaglio anche di queste cose. È chiaro che i mercati, se si trovano di fronte alla prospettiva di un enorme stimolo fiscale in una economia che è già alla piena occupazione, che cosa fanno? Scontano un recupero rapido sia delle aspettative inflazionistiche, attenzione, aspettative inflazionistiche, sì. Sia dei rendimenti obbligazionari. Questo è singolare, ma non troppo, perché comunque i mercati hanno una interconnessione, ha tirato al rialzo anche i rendimenti in eurozona. Oramai abbiamo dimenticato, diciamo, sulla parte lunga, ma anche sulla parte media della curva, i rendimenti negativi. Ed è interessante il fatto che in questo contesto l'Italia fa peggio degli altri, cioè i rendimenti obbligazionari italiani sono cresciuti più della media, sia della Germania ma anche della Spagna. I nostri spread sono più alti, il BTP decennale ha superato di slancio la barriera del rendimento del 2%. Ecco, questo è potenzialmente un problema perché questo aumento dei rendimenti non è figlio di una ripresa né europea né soprattutto italiana, per cui considerando che noi abbiamo impostato una legge di bilancio, un documento di economia e finanza con ipotesi di rendimenti più bassi del livello attuale, siamo già abbastanza a rischio che qualcosa non vada bene. Ora, adesso voi potrete anche ritenere che il problema è il referendum, eccetera, eccetera. Ma no. Però, cioè, no. Guardate, l'aspetto che secondo me colpisce di più è che ogni volta che c'è una turbolenza, una turbativa globale, i BTP sottoperformano, cioè fanno peggio rispetto ad altri emittenti. Questo illustra la fragilità strutturale del nostro paese. Cioè i nostri spread tendono ad allargarsi qualunque cosa succeda. Ecco perché, scherzosamente ma non troppo, io ho scritto ieri che dopo la Brexit che ha colpito solo l'Italia, l'embargo alla Russia che ha colpito con particolare virulenza l'Italia, le fasi lunari, le macchie solari, il cane di Padoan che gli ha mangiato i compiti, tra poco avremo anche il problema di Trump che manda a pallino i nostri soldi pubblici. Per cui vi pregherei di riflettere su questo aspetto. Se, diciamo, ogni evento esterno di una certa rilevanza si abbatte con maggior violenza sull'Italia rispetto che su altri paesi, fatevi una domanda e datevi una risposta. Lo so. Questo è il punto. Naturalmente noi non siamo sospettabili se non di dirvi di volta in volta che ci sono dei fattori, no, che riguardano le responsabilità italiane per questo andamento. Di volta in volta, secondo quello che succede nel mondo, però poi naturalmente abbiamo letto, noi siamo irreparabilmente incapaci di convincerci degli argomenti di chi invece, come il professor Fortis, domina. Solo sai che noi siamo dei discoli, tu sei un discolo, un discolaccio, non capisci che è il mondo che non ci capisce, non siamo noi che abbiamo delle responsabilità. Sì, sì, ma infatti, vabbè, infatti c'è un ascoltatore che fa una battuta, dice adesso Trump porterà gli Stati Uniti fuori dall'euro, mi pare pregevole come battuta, visto che noi italiani abbiamo sempre questo orientamento, tirar fuori sciarpa, cappellino, bandierine, fischietto e a schierarci, diciamo che la cosa è già iniziata, cercheremo noi di fare analisi, chiaramente ognuno di noi ha un proprio orientamento, una propria visione, ma cercheremo di evitare di dirvi che Trump è un modello o di sentire, come abbiamo sentito nelle ultime ore in Italia, gente che si è definita trumpista. Cioè, ovvero basta con i finanzieri, e quindi ragazzi fate un bel respiro e vedete che la storia si srotola sotto i vostri piedi, a prescindere da voi. No, poi soprattutto basta con i finanzieri, se uno legge che contestualmente Jimmy Dimon fa parte forse della forse, squadra, no, ma c'è qualcosa che non mi tocca. Ma già nel team di transizione ci magari sono gestori di magari l'unità invece edge. Dirà che si deve tutto al fatto che Renzi ha incontrato Jimmy Dimon, il fatto che anche Trump prende Jimmy Dimon, ma l'Italia è Renzi una è un talent scout, l'Italia è l'ombelico del mondo. Non mi meraviglierei di nulla da questo punto di vista, tranne il fatto che l'attesa di reflazione invece dall'America è uno dei fattori più potenti che i mercati hanno interpretato fin dal primo momento. Poi vedremo come, naturalmente riflazione significa, adesso lo dico in due secondi perché poi dopo la pausa cominciamo su questo, significa una serie di attese che si devono concretizzare, cioè davvero un'esplosione di deficit per effetto dei tagli fiscali, non taglia solo per i ricchi, taglia per tutti, riducendo le aliquote dell'IRPEF, l'equivalente nostro dell'IRPEF, a 3 aliquote. Però l'aliquota marginale, cioè la più alta, diventa 28%, che non è poco, che non è tanto, cioè è tantissimo come effetto da una parte. Dall'altra il taglio brutale all'equivalente IRES, perché si tratta di scendere dal 35 al 15%, è esattamente quello che le grandi imprese americane che hanno parcheggiato $1.5 trilioni di utili realizzati all'estero e non li rimpatriano per non pagare quel 35%, hanno sempre chiesto come condizioni per riportarli in America. Ma anche lì significa che è gettito, op. Ecco, allora, su tutte queste cose, l'attesa di inflazione di cui vi parlava Mario, che si legge nei rendimenti, no, dei bond sovrani, e questa cosa qua, certo, applicata a un paese che ha quella disoccupazione così bassa, è quasi comprensibile, se non che è anche un paese che ha la più bassa partecipazione al mercato del lavoro dagli anni 70, e quindi si tratta comunque di stimolarlo. Davvero questo programma di infrastrutture che sembra scritto da keynesiani incalliti e che ha come correzione il fatto che si chiederà ai privati di finanziarlo, cosa che io voglio vedere poi se davvero significherebbe dargli incentivi fiscali terrificanti per fare quella mole di investimenti. Ma accadrà quello perché è un classico dei repubblicani americani, non per far polemica, soprattutto diciamo. Di quelli con tradizione nel settore delle costruzioni. Esatto, sì, sì. Va bene, comunque, noi torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Eccoci qua. Sappiamo che le cose vanno male, più che male. È la follia. È come se tutto dovunque fosse impazzito, così che noi non usciamo più. Ce ne stiamo in casa e lentamente il mondo in cui viviamo diventa più piccolo. E diciamo soltanto, almeno lasciateci tranquilli nei nostri salotti, per piacere. Lasciatemi il mio tostapane, la mia TV, la mia vecchia bicicletta. E io non dirò niente, ma lasciatemi tranquillo. Beh, io non vi lascerò tranquilli. Io voglio che voi vi incazziate. Non voglio che protestiate, non voglio che vi ribelliate, non voglio che scriviate al vostro senatore perché non saprei cosa dirvi di scrivere. Io non so cosa fare per combattere la crisi e l'inflazione, i russi e la violenza per le strade. Io so soltanto che prima dovete incazzarvi, dovete dire sono un essere umano, porca puttana, la mia vita ha un valore. Ecco, questa sigletta che profetici siamo, no, perché spiega tanto da una parte del voto per Trump, dall'altra dell'incapacità di una dell'elite, della società americana, dell'informazione di capirla, di prevederla e anche di continuare a interpretarla dopo. Io

così dire, della separazione, della più distanza tra le due rive dell'Atlantico, tra quella europea rispetto a quella americana. E come mai in Italia sembra che gli unici entusiasti siano in realtà quelli che vogliono rompere l'Europa, uscire dall'euro, eccetera eccetera? Che cosa in realtà dà fondamento a questa loro speranza, professore? Beh, allora, premessa maggiore, io non credo che Trump sarà poi isolazionista come ha raccontato nel corso della campagna elettorale, non fosse altro perché gli Stati Uniti non si possono permettere oggi come oggi di essere isolazionisti. Ipotizzando che lo possano fare, che lo facciano seriamente, cosa succederà all'Europa? Un grosso problema, essenzialmente perché oggi come oggi gli Stati Uniti sono il paese che tiene in equilibrio i rapporti all'interno dell'Europa. La grossa strategia di molti, Italia compresa, è andare a cercare su una bella sponda negli Stati Uniti per opporla alle critiche che le vengono sollevate in Europa. Vale per l'Italia, non vale solo per l'Italia. Quindi, Stati Uniti che si tirano fuori dal gioco europeo rischiano da questo punto di vista di essere un problema. I sovranisti, il dibattito sovranista, in realtà io sospetto che molta gente che apprezza Trump, di Trump abbia capito veramente poco. Non solo di Trump, se posso dire. Ecco, non interrompiamo. Di Trump ha visto la facciata, ha visto l'uomo che criticava l'establishment, ha visto l'uomo che ridava voce all'americano medio, alla piazza, alla strada, all'uomo un po' grasso che fa tremare il SUV e che porta la pistola alla cintura. E non è andata oltre questa immagine stereotipata dell'americano. In realtà Trump è questo, in una certa misura, non è soltanto questo. Trump è, sotto un certo punto di vista, il ritorno al repubblicano tradizionale, cioè al repubblicano pre-reganiano. Che, da questo punto di vista, perché dovrebbe, potrebbe deludere invece i sovranisti che qui inneggiano a lui? Proprio perché Trump non mi sembra essere totalmente un sovranista, mi sembra essere in ultima analisi un pragmatico sovranista quando è necessario, consapevole del ruolo degli Stati Uniti nel mondo quando è necessario essere consapevole di questo fatto. Cioè Trump non dice semplicemente ritiriamoci nella nostra fortezza e godiamoci della nostra, la nostra posizione di privilegio. Non facciamo semplicemente una politica unilateralista, siamo unilateralisti quando ci serve, siamo multilateralisti quando ci fa comodo. Io devo dire che a conferma di quello che sta dicendo, ma lo dico modestissimamente perché è appassionato di questioni di strategia militari, chi conosce, per esempio, ho letto un libro, il libro più recente del generale Michael Flynn, che è uno degli ex vertici americani, quello più vicino a Trump, è stato braccio destro del generale McChrystal nel surge in Iraq, per capirci. Ecco, il generale Michael Flynn, che è un teorizzatore ed è diventato, diciamo, un avversario dei democratici esplicito per le politiche dei tagli alla difesa, è il propugnatore di uno strumento militare strategico americano che torna a essere forte, molto forte, non esattamente coerente con l'impostazione di uno che è isolazionista. Woolsey, che è stato ex vice consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti del presidente, anche lui in rotta con la politica dei democratici, con Clinton Obama e con Hillary segretario di Stato, uno dei più temibili avversari di Hillary per la vicenda delle mail scomparse dal server della segreteria di Stato per la vicenda dell'ambasciata libica e della morte dell'ambasciatore dei Marines in Libia, lui è un sostenitore fortissimo del maggior intervento, persino rispetto a Hillary, figuriamoci a Trump. Quindi su questo io dico che l'opinione del professor Pastore mi sembra fondata, ecco, magari molti giornalisti queste cose non le hanno lette, ma comunque vedremo dai fatti. Intanto adesso andiamo al giornale radio e grazie ai nostri due ospiti, al professor Pastore e Alberto Gallo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Eccoci qua, tornati in ascolto con i compagni dei Conti della Belva. Oltre a Oscar Giannino, vi saluto e vi ringrazio l'ascolto. Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. E Carlo Alberto Carnevale Maffè che difende gli interventi contro il BNB. abbiamo beccato. Ma questo è bello. L'abbiamo beccato. Coraggio, fattivi sotto. Ma non è possibile, Carlo Alberto. Ma come, è da anni che siamo qui a difendere la sharing economy che la capolitica non capisce, che le corporazioni non capiscono, che vogliono ridurre alla hold perché non vogliono la concorrenza, che sono indifferenti al fatto che loro soddisfano a minori costi la richiesta di centinaia di migliaia di persone, cioè hanno creato una domanda aggiuntiva per segmenti di cui non c'era l'offerta, sono tutti ostili e tu li difendi. Io difendo. Ricordo che la Commissione europea ha cominciato qualche mese fa la vera grande campagna isolazionista e protezionista nei confronti dei pezzi dell'America, incluso Google e Airbnb, che sta giustamente avendo un surplus commerciale proprio sull'economia dei servizi. L'ultimo caso è quello della causa contro Android. Ricordo che la Commissione ha detto che Android non compete con Apple, che una piattaforma di API non si può fare in logica open source con degli standard e che il bundle devono decidere loro. Proprio ieri pomeriggio è uscita la risposta di Google, che secondo me è assolutamente fondata, e dice che non è vero che Android non compete con Apple, che una piattaforma di sviluppo ha bisogno di standard comuni e che ci sono 65 miliardi di app scaricate ogni anno su Android e che quindi è uno dei mercati più liquidi al mondo. Questo per dire che gli europei a Bruxelles sono i primi in realtà ad aver iniziato anni fa questa battaglia. L'Italia non fa altro che seguire in maniera pessima, incompetente, la stessa storia. Sei contro. Ti stai rimangiando quello che hai detto. Ma no. Ma dai, doveva essere un momento di obnubilamento, perché non lo so, hai corso troppo in moto per arrivare all'inizio, l'hai detta storta. Però diciamo che in tutti questi proiettili d'argento, di finto argento che i politici italiani cercano, la digital tax è sempre bella alta nelle priorità, non no? C'è dubbio. Pensate, avessimo la digital tax, cureremmo tutto praticamente. Non c'è dubbio. Infatti, c'è per dubbio. Cui. Ma però io bisogna concedere ai politici lo sfogo, perché quando le cose non le secondo. Oggi, per esempio, c'è su Repubblica un'intervista sul tema di cui parlavamo prima: Trump, l'Europa e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, lancia una parola d'ordine indefettibile di cui non può sfuggire l'assoluta fondante pertinenza con quello di cui stiamo parlando, prima ancora di capire che cosa avverrà. Verrà davvero a seconda delle scelte, perché la risposta è: senza l'unità della sinistra il trumpismo non si batte, allora, caro certo. Mario. L'unità della sinistra è la risposta culturale elevata a tutti questi problemi di cui stiamo parlando. Allora, vestiamo poi i nostri ascoltatori. Marco da Milano, che credo che sia esattamente sul tema di Airbnb e il nuovo regime di aggravi del registro nazionale unico presso l'Agenzia delle Entrate delle attività alberghieri extra imprenditoriali. Il Duce ha appena firmato il decreto. Allora, che dice Marco? Marco, dica Marco. Buongiorno. No, io volevo dire a proposito degli adempimenti che non è tanto il problema della cedolare secca, che io già residendo sul lago di Como, avendo la casa in un bel posto, quando non la uso l'affitto, locazione turistica, inferiore ai 7 giorni, inferiore ai 30 giorni, e pago già la cedolare secca, ma sono gli adempimenti che le varie leggi regionali hanno scritto, secondo me, sotto dettatura delle lobby alberghiere. Certo. Perché io devo avere, per affittare a uso turistico, anche per pochi giorni, l'estintore, la cassetta di pronto soccorso, il frigorifero che deve essere di 200 litri, la comunicazione dei residenti alla questura entro 24 ore, la comunicazione entro il 5 del mese dei flussi turistici con le varie nazionalità, bambini e non bambini, la comunicazione entro fine anno dei prezzi massimi che devo applicare, che non so ancora quali applicherò, e via dicendo. Se questi sono gli adempimenti peggiori, la cedolare secca, non ho problemi. No, già la faccio. Ma tutto il resto, che se io sono uno preparato, mi immagino chi non ha tutta una lo Stato che vuol favorire l'imprenditore, esatto o gli agenti immobiliari oppure le lobby alberghiere, questo che trovo scandaloso. Questo è il mio punto della mia discussione con Oscar, era che tutto sotto il problema della cellulare secca è limitato, il vero problema è tutto il resto, cioè l'imposizione di un apparato di burocrazia, peraltro tutt'altro che digitale, perché poi siamo di fronte invece ad adempimenti fisici che rende impossibile questa operazione. È una modalità attraverso questa scelta, si passa così com'è, per estenderlo sempre di più all'intero regime immobiliare delle locazioni, questa cosa del cellulare secca. Questo è vedrete le prossime settimane, darò una risposta convocando qui le associazioni delle proprietà immobiliari, vedrete che mi daranno ragione, caro Alberto, ma non è che siccome mi danno ragione ho ragione, il rischio c'è comunque, continui Marco. Dicevo, per esempio, ho sentito che in Toscana la locazione turistica non può eccedere i 90 giorni. Sì. Allora, se io per lavoro sto via 6 mesi, non posso affittare, non posso fare la locazione turistica, non sono un imprenditore. Ma la Toscana è proprio, con l'attuale presidente, proprio la regione che si spinge più avanti nel dare ragione agli albergatori. Tenga conto che io sono qua in un problematico conflitto di cui non posso non tenere conto, perché la filiera del turismo alberghiero di Confindustria più volte ha fatto notare che io non sono allineato. Sì, cari ascoltatori, non sono allineato, ritengo che il mio mestiere sia di sottolineare il fatto che ci vuole un'evoluzione dell'offerta e non una difesa di quello che c'è nell'offerta, però lo devo dichiarare perché ho già ricevuto 3 volte le tirate d'orecchi e oltretutto alla testa del settore c'è una persona che considero amica e che stimo come imprenditore, e purtroppo fare il mestiere è complicato quando sono degli editori imprenditori. Comunque grazie Marco per aver sposato la linea Giannino, anche se con una concessione a quella di Carlo Alberto, che però sta sempre perdendo ai punti, è la terza via, il problema non è la tassa, è l'unità della sinistra, ragazzi. Zingaretti ci indica la linea, ragazzi. Esatto. Angelo da Verona, qui andiamo invece a tornare di Trump, a parlare di Trump. Angelo, prego. Buongiorno a tutti. Io vi ringrazio anche per la qualità dell'informazione economica. Troppo buona. Io appunto il mio intervento era sul trumpismo e quello che può accadere in Italia. E lei che pensa? Io penso che al di là ora degli aspetti razziali, mettendoli un attimo da parte, il vero trumpismo che possiamo applicare in Italia è una difesa estrema degli interessi italiani, economici italiani. Cioè molto spesso in Italia, secondo me, si eccede in esterofilia, pensiamo, come abbiamo visto, a tassare Amazon, a capire a quale patto transatlantico partecipare, ma l'industria italiana la stiamo difendendo veramente o no? Perché io vedo continuamente... Ma si difende con l'autarchia o si difende cercando più valore aggiunto per crescere nei mercati? Questa è la domanda secca, perché sennò è chiaro che una risposta seria implicherebbe 2 ore a disposizione, però con l'autarchia? Brevemente, cioè il punto è questo, ma ci rendiamo conto che la Germania sta facendo 250 miliardi di euro di surplus commerciale da 10 anni, sforando anche un patto di massa. Ma lo fa il più extra UE. Ma io rispetto il suo punto di vista. Come ma poi vedete? Anche se così fosse, come scusi, ma anche chiamano? Se così fosse l'esigenza di comprimere questi 250 miliardi di surplus, lei come lo risolverebbe? Cioè mettendo dazi sui prodotti tedeschi, immagino. No, non è perché essendo nell'Unione Europea sicuramente questo non si può fare. Però la Germania, mantenendo gli stipendi molto bassi, non permettendo inflazione, mantengono i prodotti tedeschi a molto appeal sul mercato italiano, perché se una Volkswagen Polo invece di 15.000 ci verrà a costare 40.000, i consumatori italiani non vanno a comprare. Ma scusi, allora lei pensa davvero che i lavoratori tedeschi, diciamo, prendano stipendi bassi? Cioè lei ha un'idea per quanto vaga di quali siano i salari reali tedeschi in assoluto? Rispetto all'economia tedesca, purtroppo hanno mantenuto i salari molto bassi rispetto alla crescita che hanno avuto. Ecco, sono 3 anni che salgono, però al di là di questo, ma sono visioni del mondo, sono visioni del mondo, la visione del mondo è che dice dobbiamo difendere di più, gli altri devono spendere di più, devono alzare i loro prezzi, devono investire di più. Ho capito, sto sintetizzando solo perché noi non riusciamo a stare al mondo. Però il problema è che tutto questo dalla base di un paese che appunto non lo fa. E quindi allora, capisce che non è una posizione di forza. Il punto è questo, il surplus commerciale tedesco al mese è 20 miliardi. Noi come Italia abbiamo un surplus annuo di 40. Lo so. Solo dei 250 miliardi verrebbero trasferiti sull'industria italiana. Ma lei pensa che esista la meccanicità? Ma non c'è questa meccanicità di questo ragionamento, capisce che non è così? Anche perché il più dell'avanzata del surplus in questi anni è extra, non intra UE. Quindi tanto però per non dirlo, mi è chiaro tanto perché vendendo, aumentando i prezzi delle Mercedes venderemo che cosa? Più Ape Car della Piaggio? No, vabbè, no, no, non dice questo il nostro ascoltatore. Quindi, no. Comunque, però il confronto tra questi punti di vista è il sale della terra, perché noi questa cosa dobbiamo portarla avanti nel tempo. Quindi io la ringrazio tantissimo per averci chiamato, perché noi ci dobbiamo misurare dando più spazio a, esattamente a questo confronto, cari Mario e caro Alberto, perché è il confronto che è aperto in tanta parte dell'Italia. Esattamente questo è il punto. Vero, vero. Allora, Lorenzo dalla provincia della Spezia, ma deve essere rapido. Lorenzo, prego. Buongiorno, Giannino. Complimenti, anzitutto. Allora, volevo solo dire una cosa. Tra il New Economy e Old Economy, che si dice che Trump porti avanti, secondo me non ha molto senso, visto considerato che bene o male la produzione, diciamo, dei device su cui si affida, a cui si affida la New Economy, sono tutti prodotti nel Far East, in Cina. Per cui eventualmente riportare la produzione in America e porre dei dazi sui prodotti cinesi non è una cosa così ridicola, così assurda e così contro la nuova economia. Ma non ho capito se secondo lei Trump è in realtà contro la New Economy oppure non troppo come dicono, perché lei ha esordito dicendo non troppo come dicono, poi però ci dice riportare i device a produrre in America costi molto più elevati, se stiamo parlando dei device, ha senso, allora però è in contraddizione quello che ha detto. È caduta la linea. Pronto? Sì. Sono qua. Sì. No, dico che alla fine non mi sembra così ridicolo che la produzione venga riportata negli Stati Uniti, e questo eventualmente a un prezzo anche maggiore non andrebbe contro in nessuna maniera alla New Economy. Se posso dire, una delle cose che ho visto nel programma di Trump è che più che dazi ci vuole ricreare competitività interna favorendo investimenti in nuove tecnologie, in particolare quelle di automazione industriale. Quindi in parte io sono d'accordo con lei, il mutamento dei rapporti di competizione internazionale avviene migliorando la competitività interna, quindi reinternalizzando alcune produzioni piuttosto che imponendo dei dazi. Questa secondo me è la strada che prenderà Trump. Allora, vediamo se Lorenzo e Carlo Alberto su questo hanno ci prendono. Continuiamo a dirvi che stiamo ragionando in assenza di decisioni ancora concrete, ma per aiutare tutti quanti e noi stessi per primi a capire. Torniamo tra un minuto. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Eccoci tornati in diretta, 11:21, primi 27 secondi, c'è un sole sempre più agostano fuori dagli studi. Solo il sole agostano, non la temperatura che poi ci credono. Una fredda secca, però c'è un sole agostano in questa Milano meravigliosa. E ora, qualche minuto su un punto che io appena ho letto, il decreto fiscale, sono sobbalzato, perché questa storia delle comunicazioni obbligatorie per i soggetti IVA trimestrale, io ho subito detto no, allora datemi la dichiarazione, io voglio però il credito fiscale che mi maturi ogni 3 mesi e poi me lo pagate, invece che solo l'aggravio degli adempimenti. Però ho visto che poi, come al solito, dopo un po' hanno iniziato a dire Giannino, ma tu sei sempre esagerato, ma vedi che nessuno protesta, ma vedi che è una misura di civiltà, e poi farà emergere un po' di soldi, tant'è vero che su questo è appostata una cifra superiore al miliardo di maggiori incassi, ma nessuno protesta, sei tu che sei esagerato contro questo Stato, che tu dici che è ladro, che è rapinatore, e non è vero niente, perché sei tu che sei un evasore. È sempre, e anche stavolta qua dentro mi hanno detto così. Allora, quando poi trovo un professionista, che è sicuramente più credibile di me, che sono un giornalista, zero titoli, bla bla bla bla, anche se seguo la materia da anni, che come mi è capitato in questi giorni, ho trovato commercialista che fa anche attività di informazione pubblica, che si esprime in un video che ha rilasciato esattamente su questo tema dell'aggravamento degli adempimenti previsto dal decreto fiscale collegato alla legge di bilancio, in una maniera che me ne ha fatto immediatamente innamorare, non dal punto di vista di genere, dal punto di vista della chiarezza con cui lo sento parlare. E finalmente c'è ogni tanto qualche commercialista che... Io capisco che l'obbligo professionale rispetto per l'Agenzia delle Entrate, per l'apparato tributario, la storia della lunga e dolorosa commissariamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha messo in fila l'ordine, rendendolo un po' meno proclive a protestare. Capisco tutto. Però ogni tanto sentire qualcuno che dice avete rotto la scatola perché non potete andare avanti così e prenderci per i fondelli, per me è motivo di grande, devo dire, piacere, perché mi sento meno solo e non mi sento dire che sono pazzo. Allora, è esattamente con noi questo professionista, si chiama Antonio Gigliotti, direttore di Fiscal Focus. Se fate una ricerca dei suoi filmati ne trovate facilmente così espliciti. Grazie di essere con noi in questo sabato mattina. Grazie a voi, buongiorno. La invito a essere altrettanto esplicito, senza nessun... Allora, lei a un certo punto ha detto, ma io ho visto questo decreto, ma e dicono che non dobbiamo protestare, ma dove vogliamo arrivare? Perché stiamo zitti? Spieghi un po' perché secondo lei è un ennesimo passo verso l'inferno fiscale. Ma guardi, intanto le dico che non le dico di stare sereno perché sta frase è pericolosa, comunque le dico comunque che non è solo a gridare, a dire queste cose, perché questo mi rende felice, perché pensavo anch'io di essere il solo. Siamo un po' meno soli. Ecco, di sta roba, quindi ci consoliamo a vicenda. Guardi, il problema è uno soltanto, no? Cioè io non ho mai fatto politica, nel vero senso della parola, mi sono soltanto occupato della professione. E il problema serio, sa cos'è? Che da vent'anni a questa parte, da quando è arrivato il telematico, cioè da quando doveva arrivare la semplificazione, per il professionista normale è iniziata la fine dell'attività professionale. Perché? Perché una volta noi addirittura, quando facevamo le dichiarazioni dei redditi, si facevano a mano, non so se lei ricorda all'epoca, si facevano a mano, si copiavano a mano e gli si portavano all'ufficio, quindi l'ufficio doveva prendersi tutti i dati e lavorarseli. Da vent'anni a questa parte che cosa è successo? Che è arrivata l'era del telematico, cioè non loro si prendono i dati, ma noi glieli inviamo direttamente telematicamente. Bene. Questo è stato il primo punto di partenza. Quindi diciamo, è il punto di partenza dal quale, da quel giorno, siete diventati funzionari dello Stato, ma pagati dal cliente. Assolutamente sì. E poi il problema, sa cos'è? Se fosse veramente così la cosa, cioè che più c'è da lavorare, più ci stanno adempimenti e più il professionista guadagna, sarebbe un'ottima cosa, no? Se un'azienda, se aumenta il lavoro, è ben contenta perché praticamente aumenta la produzione e aumenta i ricavi. Sì, discutibile in ogni caso che la compliance per il contribuente debba avere un costo crescente, dovrebbe avere marginalmente un costo decrescente per incentivare alla fedeltà, all'adesione spontanea dell'ordinamento. Se me lo fai crescere mi passa la voglia. Però comunque lei dice il paradosso è che non è neanche così, perché non è vero. Così, perché poi in questi momenti difficili di crisi già fanno fatica a pagarti l'ordinario. Esatto. Non puoi mica aumentare ancora la partenza. Confermo, perché io l'ho detto al mio di commercialista. E lo spesometro è l'ennesima dimostrazione di un qualcosa che va contro la semplificazione. Perché se tu mi parli di semplificazione, e prima io come professionista avevo due adempimenti l'anno, lo spesometro e la comunicazione, e adesso in un pacchetto di semplificazioni, quelli che erano due adempimenti diventano otto adempimenti. Ma siamo impazziti? Ma diciamole le cose veramente come stanno. E poi mi consenta un'altra cosa, no? Ma io dico, quando gli si dice, ma perché sta roba? Perché ce lo chiede la Comunità Europea. Bene. Ma allora quando vogliamo arrabbiarci, quindi con la Comunità Economica Europea, perché noi non sottostiamo, allora praticamente facciamo quello che diciamo noi. Cioè per fare più deficit li mandiamo a quel paese, ma altrimenti no, esatto. Non è possibile. Ma lei lo sa che la Orlandi le ha risposto già, la Orlandi, la direttora, guardi, dell'Agenzia delle Entrate, ha detto che le sue sono argomentazioni speciose, perché in realtà si tratta, come ha detto lei c'ha tutto nel computer, fa click tre volte l'anno in più, non una ma quattro, e qual è l'aggravio? Queste sono le parole della Orlandi, e che il capo dell'Agenzia delle Entrate che osa rivolgersi in questo modo, cari professionisti tributari, a tutti voi, forse sarebbe il caso che glielo spiegaste alla dottoressa Orlandi come funziona. Funziona così? Lei non vuole fare click altre tre volte? Guardi, è assolutamente una vergogna. quando il capo dell'Agenzia delle Entrate, con il massimo rispetto per l'istituzione che rappresenta, ma non mi si può venire a dire che basta un clic, perché vuol dire, caro Giannino, che se uno praticamente ha fatto una dichiarazione, dice guarda, tu basta che fai un clic, qui bisognava che arrivava la rivoluzione dei professionisti. Invece purtroppo siamo tutti ad abbassare la testa, perché molto probabilmente, come dice qualcuno, ci sono tutta un'altra serie di interessi. Allora bisogna tirarle fuori queste robe qua, perché è arrivato veramente il momento che la gente è stanca. Guarda, io giro tutta l'Italia a fare corsi di formazione, io quindi con la gente che si fa un mazzo 24 ore al giorno, sabato e domenica compreso, io ci sto tutti i giorni, molto probabilmente chi a volte ci rappresenta o vorrebbe rappresentarci dovrebbe scendere e vedere come sono gli studi. Questa povera gente che addirittura a volte è non mi vergogno, ma c'è un viceministro che viene dalla vita associativa degli studi professionali. Non so se è il caso di sorvolare. Guardi, stamattina ho fatto un altro video, glielo consiglio, no? Ancora non ha avuto il tempo. No, per dirle soltanto la coerenza, guardi, le racconto velocemente. Fino a qualche anno fa io facevo formazione, no? Allora, siccome ero iscritto all'albo dei commercialisti, quando uno fa formazione, io non vivo di incarichi, io vivo della mia attività professionale, non ho incarichi, non sono candidato, non sono candidabile. Allora, cos'è che ho fatto? In qualche città addirittura non mi venivano riconosciuti i crediti della mia rivista per la quale facevo i corsi, perché dice che io ero molto vicino a una categoria che non sono i commercialisti, che sono i tributaristi. Va bene. Oh, guarda caso, quindi oggi, o meglio due giorni fa, viene firmato un emendamento dove a questa categoria di professionisti viene data la possibilità anche di rappresentare i contribuenti. Ma un caso, sarà un caso. Ma pensa a te, ma è un caso. Ha dato il benestare. Ma è un caso. Questo viceministro, è un caso. È un caso. È una vergogna. È un caso. Allora, io ringrazio i professionisti che come Gigliotti ritengono comunque parte del dovere professionale dire al contribuente che quello che gli viene detto, che moltiplicare le procedure di adesione all'ordinamento, di comunicazione dei dati eccetera eccetera, A non è vero che è una cosa senza costi, B non è vero che è fatto solo per la lotta all'evasione, all'elusione eccetera eccetera, C che questi costi aggiuntivi in cambio di nulla sono la maniera con cui il fisco si fa male da solo, perché è una pessima maniera di dire che nel frattempo fa semplificazioni e rende più agevole il fisco amico a chi vuole aderire. Non è così. Il fisco che diventa più oneroso per il professionista, che è diventato funzionario dello Stato ma pagato da noi purtroppo, è un fisco che dice ancora una volta a chi può, vuole, non mi interessa, non a me, e fai bene a evadere, mentre a quelli come me dice coglione, ti spremo come un limone e lo faccio anche al professionista che ho reso corresponsabilmente nei tuoi confronti, altra pistola alla tempia verso voi professionisti tributari, corresponsabilmente in senso amministrativo, civile, in solido, in patrimonio e in penale, che è come dire l'hai capito che comando io, lo Stato e non chi ti paga, caro professionista tributario. Questa sì, io la considero il venir meno di un fondamento, di un rapporto di fiducia e leale collaborazione tra me cliente e il mio professionista, perché io non ho la pistola alla tempia sulla sua libertà e sul patrimonio che lo Stato gli punta attraverso l'ordinamento. Io posso solo pagarlo e sperare che faccia bene. Lui con quella pistola alla tempia è diventato la parte più bassa della piramide dei dipendenti pubblici, perché non ne ha i diritti, ne ha solo i doveri e ne è minacciato purtroppo nel patrimonio e nella libertà. Questo non è uno Stato di diritto, è uno Stato autocratico fascista dal punto di vista tributario. Io minoritariamente la penso così, grazie a quelli come Antonio Gigliotti che ci aiutano a continuare a dire queste cose. Torniamo tra un minuto. Cos'è stato? C'è qualcuno? Sono io, Dylan Dog. Quel Dylan Dog. E lui è il mio amico Brucio. Ciao, bello. Intenditrice, eh? E dovresti vedermi nudo a cavallo. Impazziresti per il cavallo. Piantala, Brucio, non possiamo. Siamo già in ritardo. Mi aspettano a Radio 24. Che cosa devi fare? Vogliono che racconti le 8 storie più emozionanti dei miei 30 anni di avventure. Ma quando ci risentiamo? Beh, su Radio 24 tutti i sabati alle 15. E quando vuoi, in podcast su radio24.it. Tecnologie e logistica di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte l'imposta. racconti della belva. Ed eccoci qua alle 11.30, in verità siamo al 37, qua al 38, ma alle 11.30 con la nostra rubrica in cui tradizionalmente utilizziamo la musichetta, insomma, di 8:30 di Fellini per sottolineare e commentare una dichiarazione della politica interna, internazionale, della finanza, dell'impresa, ma che segni un po' il punto della settimana, o perché è eccessiva o perché rivela un terrore di fondo, un grande problema irrisolto. E questa volta io prima di presentarvi il nostro consueto ospite vi leggo, abbiamo già detto che cosa Juncker ha detto dell'elezione di Trump. Il Presidente della Commissione Europea ha detto: beh, adesso qui 2 anni da perdervi, questo deve girare il mondo, non lo conosce. Poi, tra le reazioni europee a commento della vittoria di Donald Trump, forse la più gelida, la più fredda, insomma, si contende la palma quella del presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, socialista, che è stato duro, molto duro all'inizio, poi ha dovuto correggere, e del presidente François Hollande, francese, che ha parlato di un periodo di incertezza lungo, difficile, complicato, che bisognerà affrontare con lucidità e chiarezza. Allora, capite che se parla il presidente Francia parla di un periodo di incertezza lungo, difficile e complicato, è come dire: non solo non me lo aspettavo, e vabbè, ma è anche, insomma, la peggiore delle cose che si potesse immaginare. Allora, grazie di essere con noi per questa rubrica, come sempre, come tutti i sabati oramai, e io ne sono molto felice, a Udo Gumpel, giornalista tedesco, corrispondente in Italia della televisione NTV. Come stai, Udo? Ma io sto benone, io mi sto divertendo un sacco, veramente giorni stupendi, perché abbiamo l'ignoranza che regna sovrana, e è chiaro che ti può solo divertire, perché quando i cretini dominano la scena è fantastico. Allora cominciamo almeno a togliere, non i sassolini, ma perché non sono sassi, non sono manco sassolini. Sono delle cose volatili, insomma, di aria sono fatte, no? Allora, se Trump ha vinto chiaramente, perché ormai gli analisti sono concordi, perché la Clinton non è riuscita a mobilitare almeno 5 milioni dei suoi elettori che Obama le aveva dato in regalo, perché era visto troppo vicino ai poteri forti. E se i commenti italiani erano tutti, anche il gran maestro della lotta ai poteri forti, Grillo, aveva tuonato immediatamente una gran bella cosa: il popolo contro i poteri forti. E questo è naturalmente ignoranza pura, perché Trump è miliardario, e se uno è potere forte, perlomeno è lui. E se però ancora andiamo più in dettaglio, che l'impero di Trump, che era diverse volte vicino alla bancarotta, è stato sempre salvato dalle banche di Wall Street. E ora, tra le persone che sono in lista di prima fila per fare il ministro delle finanze, è un grande manager a JP Morgan, che è il tempio del male, che è proprio il centro dei poteri forti. Allora qui si risveglieranno molti. Un giorno che capiranno, se capiranno le notizie, che in realtà Trump è veramente il fulcro dei poteri forti, deboli, perché vivono dei soldi degli altri, no? Perché l'impero di Trump immobiliare è stato gran parte su crediti dalle banche, dunque con i soldi nostri, finanziato. Poi che lui da 10 anni non paga le tasse, perché ha avuto nel crack del suo impero a Las Vegas, altro fulcro di edilizia popolare, Las Vegas, no? Quello che lui ha investito per il popolo, per i deboli, a Las Vegas, l'ho ripetuto 3 volte anche per coloro che non riescono a sentire, e i 987 milioni di perdita che ha fatto si spalma, secondo la legge fiscale americana completamente legale, così da 10 anni non paga le tasse. E questo è veramente un vero campione, però è chiaro che degli operai, il popolo, gli operai, esatto, proletari, il miliardario operaio, esatto, il miliardario operaio. Voglio dire che Berlusconi si sia risentito da essere accomunato a Trump, capisco bene, perché Berlusconi almeno si è fatto mattone su mattone e stava lì a vendere lui gli appartamenti. Insomma, è un gran comunista, no? Scusate, comunista, ma un gran operaio vero, Silvio Berlusconi, no? E le storie delle tasse lasciamo stare, ma che sono veramente pazzecole. Però fatemi dire ancora un'altra di quelle cose che sono buffissime. Stiamo parlando stavo parlando del regno dell'ignoranza, no? Non solo un alto dirigente come Di Maio non legge le email perché probabilmente non le capisce, non sa cos'è le email in un e adesso scopriamo anche che in realtà la Costituzione e che Di Maio e Di Battista, no? Detta Erce de Noantri qui a Roma, no? E forse non sapere cos'è De Noantri, che sono sì. una gran festa popolare. La tua pronuncia di De Noantri che è bellissima. Allora, Erce de Noantri, e allora questo grande Erce de Noantri cosa dice? È veramente per la difesa della Costituzione messa sotto da Renzi dei cattivi, dice che quella fu fatta a suffragio universale deciso e ora il popolo deve difenderla. Cioè, questi qua non so come hanno passato gli anni a scuola. Io sono convinto che le scuole le hanno insegnato, ma dove è stato Di Battista in tutti quei anni prima di raggiungere anche la maturità? Era in giro con lo scooter, no? Dai, sì, su. Evidentemente, no, non voglio insinuare che abbia girato con lo scooter. E se certo all'epoca si poteva girare a 14 anni, è vero, no? Infatti magari ha fatto continui giri, ma e questo sarebbe l'alternativa. Io voglio sapere come sono critico nei confronti di Renzi e delle fandonie e delle chiacchiere a vuoto, dell'attacco all'Unione Europea. E guarda, proprio in questi tempi di Trump, cosa dovremmo fare noi europei? Dovremmo unirci intorno alla bandiera dell'Europa. Non ma come l'abbiamo appena tolta da dietro le spalle, no, del nostro presidente del Consiglio? Vergogna. Non è che adesso io sia renziano, per niente, perché io giudico le persone per i fatti, non per le promesse, ma per le chiacchiere inutili, per stupidità, ma anche per i fatti. E che Renzi vada continuamente contro l'Unione Europea per racimolare forse due voti, che ne so. Cosa ha in testa per raggiungere il successo al referendum? Però vedremo, dietro, perché sai, ricordati che la legge elettorale funziona quasi sempre e che tra l'originale e la copia l'elettore sceglie l'originale. Se vuoi l'antieuropeo, prendo l'antieuropeo che lo dice da anni. Quindi. Certo, lo prendi Salvino che è antieuropeo doc, prendi Grillo 9 che non sapeva in realtà, due, anche uno che corre dietro, ma allora prendi Salvini, prendi altri, non voti Renzi se vuoi che si tolgano le bandiere europee. E poi chi ti tiene in vita da due anni con i soldi? Come si chiama? Banca Centrale Italiana? No, si chiama Banca Centrale Europea, la BCE ti tiene in vita da due anni perché permette alla Banca Nazionale Italiana a comprare i titoli. Altra ignoranza, perché loro credono questo quantitative easing, ovvero i decine di miliardi di euro che vengono tolti dal mercato, che in pratica il tesoro emette e ricompra se stesso. Questo fatto bellissimo, no, per i debitori naturalmente, e finisce sempre nel debito del conto italiano, ed è per questa ragione che il debito italiano nei confronti del sistema dell'euro è già arrivato a quasi 400 miliardi di euro. Vabbè, ma in Italia, no? Lo sai che alla fine c'è chi dice che basta un click, anche basta in questo un click, caso noi siamo la Repubblica del click, basta un click per azzerarlo, basta un click per l'Agenzia delle Entrate, basta un click per rimuovere il debito. Udo, devi adeguarti, basta, intanto devi essere un po' meno produttivo, che se no qua la cosa bella è che io, voi sapete, una volta facevo un mistero serio, mi occupavo di fisica, che peraltro sapete chi sono? Chi è il maggiore datore di lavoro di fisici nel mondo? Non sono gli istituti di ricerca, sono tutti i fondi internazionali di Wall Street, perché il fisico è in grado di capire questo problema con molteplici attori e multiple particle systems. Insomma, questo è il vero fulcro, perciò non siamo del tutto inadeguati a capire queste situazioni. Allora, e però se questa gente dice basta un click, tanto chi se ne frega, debiti li pagano gli altri, mi sembra uguale alla persona che si è buttato dall'aereo senza paracadute e discute tra sé e sé se per lui è valido anche la legge di gravità o meno. Ecco, e su questa aurea sentenza del fisico direi che noi non possiamo che essere grati a Udo e alle lezioni che ci dà, che non dà solo alle persone che cita di volta in volta e che attacca, in realtà ce n'è per tutti, è un costume nazionale, lui non generalizza, però è un modo di fare i furbi che spesso abbiamo e che ci accomuna anche al di là delle convenzioni diverse. Grazie Udo, torniamo tra un minuto. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita e la della belva. Eccoci qui tornati in diretta per gli ultimi minuti dei conti della belva. Naturalmente la tagliente ironia di Udo Gumpel ha portato i nostri ascoltatori a coprirci di raffiche di mitragliatrici MG42. Sì, ma ci sono anche quelli favorevoli. Ci sono quelli favorevoli. Ci sono anche quelli favorevoli. Ci sono anche quelli favorevoli, mai c'è più. C'è qualcuno che dice che Di Battista e Di Maio sono troppo alti per noi, che sì, fanno qualche piccola gaffe, ma solo per darci argomenti di discussione. Vabbè, cioè, esatto. Un atto di generosità. Sì. Poi, insomma, quando Schröder sfiorava il 3% di deficit e noi stavamo zitti e la Germania non piaceva il rigore, è vero, ma io la direi in questo in questi termini, quando la Germania sforava il 3% di deficit PIL, Tremonti si fregava le mani entusiasta, esatto, di poter fare lo stesso. Esatto. Eppure, se la Germania ha sforato, è riuscita a riprendersi, noi abbiamo sforato e abbiamo sforato e abbiamo sforato e continuiamo a sforare. E poi, guardate i risultati. Ecco, a piedi lista, esatto, la ragazzi, qualità del deficit, non la qualità sua del misura deficit, che conta, esatto, per ecco, me il deficit non è comunque, tabù, noi siamo qua anche qualità. Per provocarvi, cari ascoltatori, la radio è questa roba qui, e quindi ragazzi, grazie perché comunque oggi abbiamo avuto sovranisti con cui abbiamo iniziato a dialogare, che è il mio grande scopo. Vabbè. Riuscire, no, è il mio grande scopo perché siamo ridotti sui social, scusami, semplicemente alla gente che ti insulta, no, se non la pensi come loro. Ma sì, e invece dobbiamo favorire un po' di dialogo. Io tra l'altro ho dimenticato di chiedere a Udo se effettivamente in Germania ci sono i morti di fame agli angoli delle strade, visto che gli stipendi tedeschi sono praticamente, la Caritas ha inviato un battaglione in Germania perché gli stipendi tedeschi impediscono di stare al mondo. Dai, e vabbè, dai. E il dialogo è fatto di reciproche accettazioni di tono, sì, un po' più misurato. Esatto, allora, ma noi qua cosa dobbiamo accettare? Renato Cifarelli, questa volta ci vuoi, caro Renato, se non sei per trifole anche questo fine settimana? No, lo so che non è vero, dai, stai lavorando, ma detto questo, grazie di essere con noi. Ma ci dai un ulteriore esempio di una cosa che stai buttando giù? E se in un paese civile secondo te non la dovresti buttare giù come la butti giù? Un abbraccio intanto. Buongiorno ragazzi, come state? Sentite, volevo dirvi che la nostra fame è diventata transnazionale, perché è appena arrivato un mio cliente malese, come regalo mi ha portato un gufo, quindi non so se dipende. Vabbè, sai, no, le notizie si spandono. Non so se c'è. Allora, io questa ammetto le mie colpe, questa settimana sono in fiera e quindi non ho assolutamente nulla da dire. Quello che ho, perché mi sto occupando di mercati internazionali principalmente, quello che posso dire è che ho incontrato diversi americani in questi giorni e quasi tutti mi hanno detto che hanno votato per il cambiamento. Quindi poi alla fine, quando parli con le persone, e tu conosci con esattamente quell'America rurale che viene accusata, da, naturalmente, non quella della West Coast e East Coast, esatto, macchine agricole, esatto. Parli con persone che sono un po' in mezzo. No, beh, so che abbiamo già trattato in trasmissione, anche se oggi non vi ho sentiti, la questione delle tariffe minime. Ecco. Nel tuo settore cosa significherebbe un ritorno al protezionismo? Allora, il ritorno al protezionismo per un'azienda come la nostra che fa il 95% di export può significare chiudere, ecco, detto proprio fuori dai denti. Infatti quest'anno, cioè questa settimana, con tutti quelli che erano trionfanti per Trump eccetera, la mia reazione è stata quella di dire: spero che non lavoriate in un settore, in una filiera che esporta, perché il protezionismo è molto bello, ma siccome deve essere reciproco, se tu esporti, allora vendi le tue macchine in Italia o nella comunità europea. Auguri a vendere le tue macchine in Italia, sì, nel senso però che vedi. Avere un buon mercato nella comunità europea, ammesso che rimanga la comunità europea e non esploda anche quella con Brexit. Vedi Renato, questo che però tu, Renato, tu però hai una visione miope, perché anche se la tua azienda dovesse chiudere e con essa molte altre aziende a causa del protezionismo, ci sarebbe la soluzione, no, ci sarebbe il reddito di cittadinanza, esatto, dopo, che ti correrebbe in aiuto. Sì, mi piacerebbe poi sapere quei 2 milioni così malcontati che la nostra azienda genera di tasse all'anno, come li recuperano. Stampiamo, però... li stampiamo, tranquillo. Li stampiamo. Basta un click. Come noto, basta. Allora, questo. Scusate, facciamo l'innovazione tecnologica. Esatto. Una stampante in ogni casa. Ma esatto. No, però si stampa quello che ha bisogno e siamo a posto. Però guardate che Renato, con la semplicità di uno che sta lavorando e quindi sta sul pezzo, come si suol dire, ci regala una buona conclusione di questa trasmissione. A volte più utile del contestare questo, quella misura, questo, quell'adempimento. Perché se noi passiamo anni e anni a dire che le imprese devono andare sulla strada giusta, più alto valore aggiunto e più export, e poi inneggiamo un mondo in cui chi l'ha fatto viene bastonato, abbiamo qualche problema di comprensione della realtà, di noi stessi, del meccanismo degli incentivi, di che mondo vogliamo. Ecco, questo è il punto vero. Qui c'è un problema cognitivo, non è un problema di reddito, patrimonio o dei titoli di studio, è un problema di che mondo immaginiamo sia quello in cui la capacità italiana di saper fare cose, per cui ci sono centinaia di milioni di clienti in più grazie alla globalizzazione, gliela vogliamo fare o vogliamo tornare indietro? Tutto qua. Grazie Renato, perché ce l'hai detto con una semplicità che era esattamente quello di cui avevamo bisogno. E grazie a voi compari Conti da Bella, grazie a voi ascoltatori.